Il falco e il gabbiano. E il gabbiano di Enrico Ruggeri. Oggi è una puntata meravigliosamente difficile perché dobbiamo parlarvi di un personaggio per il quale in realtà avremo bisogno di una settimana, perché è un grande attore, è uno dei più grandi del nostro panorama italiano, ma è anche un attore apprezzato all'estero, un personaggio poliedrico, è un doppiatore, uno che ha accumulato un numero impressionante di personaggi, di collaborazioni, una carrellata straordinaria di figure che grazie a lui hanno raccontato il nostro paese, nei suoi vizi, nelle sue virtù. Ma non è solo questo, che sarebbe già tantissimo, perché come abbiamo già detto, insomma, lui è anche uno che ha dato voce e ha reso mitici personaggi come Jack Nicholson e Al Pacino doppiandoli, perché sappiamo quanto è importante il doppiaggio per certi personaggi di Hollywood, quanto a volte è deludente poi sentire le voci originali rispetto ai nostri grandi doppiatori. Ma non è ancora solo questo, c'è qualcos'altro di questo personaggio, una sua passione che non c'entra con la recitazione, che forse non tutti conoscono. Insomma, beh, noi stiamo per dedicare la nostra puntata a Giancarlo Giannini, un italiano apprezzato molto all'estero, anche perché lui è uno che ha una grandissima conoscenza per le lingue, non solo recita praticamente in tutti i dialetti italiani che conosce benissimo, ma recita benissimo anche in inglese. Così, tanto per entrare nel vivo, sentiamo cosa ha detto proprio lui in un'intervista a proposito dell'attore. In teatro c'è una bellissima espressione di un grandissimo attore mimo che è Jean-Louis Barrault, a cui io stesso chiesi a Bruxelles quando si facevano degli incontri di teatro, io ero un ragazzino, e gli chiesi che cos'è l'attore per te? E lui mi rispose: l'attore è colui che col suo movimento incide uno spazio e con la sua voce incide un silenzio. È bella questa, Comunque Giannini la incarna perfettamente questa definizione dell'attore, anche perché nel corso di una carriera così lunga che è iniziata negli anni 60, lui ha fatto circa 180 film, e poi c'è il teatro, poi c'è il doppiaggio, ci sono decine e decine di personaggi unici, di tipologie umane costruite con grande bravura, con grande profondità, e lui veramente ha inciso lo spazio in silenzio con la sua grande personalità e anche con la sua meravigliosa voce. Giancarlo Giannini nasce a La Spezia il 1 agosto del 42, però quando ha 10 anni la famiglia si trasferisce a Napoli. Lui si diploma in quella che sarà sempre la sua grande passione, l'elettronica. Sì, probabilmente non lo sapevate, ma Giancarlo Giannini è un bravissimo perito elettronico. Poi scopriremo perché vi sto dicendo questo. Io sono un perito elettronico industriale, in realtà mi sono diplomato all'Alessandro Volta di Napoli, una scuola molto... Avevo come insegnante addirittura il compagno di banco di Fermi, di fisica, insomma. E quindi quella era la mia vera carriera. E poi per caso ho fatto l'attore, quando qualcuno mi ha detto: perché non vai all'accademia? Perché io dovevo andare a lavorare in Brasile sui primi satelliti artificiali, oppure all'IBM i primi computer, però dovevo fare il militare. Poi per ragioni che non ho fatto il militare, quindi ho scritto, però fra un anno, avevo un anno libero. Non ho fatto il militare perché avevo una nonna, a dire la verità, non sapevo, l'ho letto, chi ha una nonna, primo nipote maschio, eccetera, eccetera. E quindi mi sono trovato così. Qualcuno mi ha detto: perché non vai all'accademia? Pensavo fosse l'Accademia dei Cadetti di Misida o di Modena. Beh, però un anno posso farlo così. Invece l'Accademia d'Arte Drammatica, un signore mi ha preparato, molto bravo, devo dire. Sono andato per divertimento, per gioco. Mi hanno assegnato una borsa di studio, che allora io, così l'ho fatto un po' per gioco. Dico: oddio, e sono rimasto un anno. Insomma, un caso fortuito, ma una fortuna della quale abbiamo usufruito anche noi che lo abbiamo visto recitare. Giannini entra alla prestigiosa Accademia di Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma. Dovrebbe stare solo un anno prima di andare in Brasile. Invece debutta in teatro nel 60 a 18 anni in una commedia che si chiama In memoria di una signora amica di Giuseppe Patroni Griffi. Debutta accanto a una grandissima attrice, Lilla Brignone. E dopo il regista, che si chiama Beppe Menegatti, il marito di Carla Fracci, gli affida il ruolo del folletto Puck in Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare. Evidentemente è bravo, perché lo nota Zeffirelli, che lo sceglie come protagonista del suo Romeo e Giulietta. Enorme successo anche in Inghilterra, e viene conquistato anche il raffinato pubblico dell'Old Vic Theatre di Londra. Insomma, la strada di Giancarlo Giannini è segnata. Il mondo perde un bravissimo perito elettronico, ma guadagna uno straordinario attore destinato a grandi cose. Il falco e il gabbiano. Giancarlo Giannini è in teatro, ed è in teatro che incontra la grandissima Anna Magnani, e con lei recita Nella Lupa, il dramma terribile di Giovanni Verga. Vengono diretti da Zeffirelli, e poi è il momento finalmente di approdare al cinema, che da quel momento sarà il suo mezzo espressivo per eccellenza, e poi anche alla televisione. Nel 65 debutta con un film che si chiama I criminali della metropoli, e poi segue Libido. Però il primo grande colpo d'ala viene nel piccolo schermo, in televisione, perché veste e panni di David Copperfield nel mitico sceneggiato di Anton Giulio Maiano. David Copperfield, tratto dal romanzo di Dickens, fu uno dei più grandi successi nella storia della televisione. Io ero un bambino, ma me lo ricordo perfettamente. Dopo i giorni incantati della luna di miele, mi rituffai nel lavoro. Il Times mi aveva aumentato lo stipendio come resocontista parlamentare, e inoltre, il che è molto più importante, la mia vocazione di scrittore si era già delineata. È un'esperienza che lui ripeterà qualche anno più tardi, nel 71, ancora con Anton Giulio Maiano. Lo sceneggiato questa volta è Le stelle stanno a guardare, tratto dal romanzo di Cronin, dove tra l'altro recita anche la sua prima moglie, Livia Giampalmo, che lui sposa nel 67. Poi Giannini si risposerà con la seconda moglie, che si chiama Aurilia Del Bono e che è la sua attuale compagna. Ma in quegli anni c'è un incontro fondamentale, un incontro tra due persone, e entrambe avranno la vita cambiata da questo incontro. Giancarlo Giannini da una parte, l'attore, e la grande regista Lina Wertmüller. E con la Wertmüller Giannini comincia in sordina, cioè lavora in due musicarelli, cioè i film che si facevano negli anni 60 per dare ai cantanti il pretesto di cantare al cinema le loro canzoni. La partner è Rita Pavone, La Zanzara del 66, Non stuzzicate la zanzara del 67, ma il primo colpo d'ala cinematografico è del 1970. Qui il regista non è ancora la Wertmüller, è Ettore Scola. Lui recita con Monica Vitti e Mastroianni, e il film si chiama Dramma della gelosia. Dove si va? E dove volevo andare? A ballare? Tu ce l'hai una donna, la mia, si chiama Adelaide, la fine del mondo, una vampa, nell'atto intimo strilla e mozzi. Dai, io di donne ce n'ho un centinaio. Beh, non un paio. Anche perché all'amore unico e possessivo non ci credo mica. Anzi, non lo trovo giusto. Ma come, vogliamo l'uomo libero? Siamo contro il possesso dell'uomo sull'uomo? Quindi sa da essere anche contro il possesso dell'uomo sulla donna. Non ti pare? Au, a biribicchio, a te le da giovane t'offusca. Il lavoratore ha un solo bene ed uno solo, la propria donna. E che vuole, voleva pure quello, mo? A me... Se qualcuno ci prova a levarmelo, l'ammazzo. L'ammazzo, mica bruscolinza. Tu che mestiere fai? Pizzaiolo. Buone le pizze. Io ci sputo sopra. Ah, oh, fammi sapendo la voce. Ma è con la Wertmüller che Giannini fa nascere una serie di personaggi grotteschi, ironici, diventati celebri, diventati delle pietre miliari della storia del cinema mondiale. Il primo è Mimì, metallurgico, ferito nell'onore, 1972, con la grande Mariangela Melato. È un film col quale Giannini vince il suo primo David di Donatello, il suo primo nastro d'argento. Sono i primi di una lunghissima serie di riconoscimenti che non citeremo perché non basterebbe una puntata. Allora, che mi dovete dire? Una cosa molto delicata. Delicatissima. Che cosa vorreste allude? La Rosalia, la tua moglie allude. In che senso? Meschina, la lasciaste sola qua, tu al nord, anche quando tornaste avevi sempre che fare, e da sempre sola. E vabbè, sempre sola, e che cerca compagnia? No, è che, non è che... Avanti, parlate chiaro, insomma, fatemi capire esattamente che cosa vorrebbe, un vecchio. Già, gravida! Ah. Da 3 mesi, incinta. Successo, padaracchio, ora lo sai. Tu sei un uomo intelligente, metallurgico, comunista, le tue coppe ce l'hai anche tu, quindi non ti mettere a fare compare Turiggio. È arrivato il momento di sistemare le cose. Vi accomodate a divorzio, non divorzio, senza tragedia, con stima reciproca. Basta! Spengo il nome, ma Dio! Ma la femmina! Mi ferma, è un comunista, non si comporta così! Ma vaffanculo, tuo comunismo, ma che comunista connoto sono! Vai a scendere, la gallina è vedere queste cose! Delle parole che e nel 73 ancora con Mariangela Melato c'è un'altra interpretazione gigantesca di Giannini. Il film è Fin d'amore ed anarchia e avete sentito il brano Canzone arrabbiata, scritto da Nino Rota, cantato dalla sorella di Mariangela Melato, Anna Melato, colonna sonora di un film che vale a Giannini il premio come miglior interprete maschile al Festival di Cannes. Nel 74 arriva quello che viene considerato il capolavoro del trio Vermüller, Melato, Giannini. Il film è con il tipico titolo chilometrico della Vermüller, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Un film che ha fatto epoca, che ha creato modi di dire rimasti nella mente e nel cuore di tutti, come la famosissima bottana industriale. Alto, non minaccioso adesso. Ho detto che è inutile cavare acqua dalle rape. Senti, donna Raffaella e Pavone Zambetti, ora mi hai rotto la minchia! Io faccio quello che sacata cazzo mi pare! Gioia! Ma che ti credi di essere? Ma vaffanculo, va! Caffone! Vaffanculo! Maleducato! Vaffanculo! Gran caffone maleducato quello lì! Butto poco! Bottana! Sto scarafaggio! Gioia! Soccola! Puttana maiala! Brutto mozzo! Trinariciuto del cavolo! Lo dico perché come lo chiamino così! Uno stronzo! La signora di questa minchia! Brutta puttana industriale! Che mi facesti sputare sangue su che da maledetta bacca! Che ancora ieri sera ti permettesti di dirmi in faccia che ti faccio schifo! Lei è un verme! E qui la Melato e Giannini danno vita a due personaggi straordinari, la ricca borghese viziata, anticomunista, la signora Raffaella Pavone Lanzetti, e poi invece il marinaio rozzo siciliano comunista Gennarino Carunchio, che si trovano soli e naufragano su un'isola deserta, e qui non ci sono più i ricchi e i poveri, qui c'è un confronto tra due persone e i ruoli si invertono, lei diventa la schiava di lui in un turbinio di sentimenti molto divertente ma anche molto interessante, e anche quando sfocia nella passione, fino a quando poi la storia finisce perché i due vengono ripescati e tornano alle dinamiche abituali della loro vita. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando uno dei più poliedrici e apprezzati attori italiani, con una ricchissima, lunghissima carriera alle spalle e anche una carriera davanti. Stiamo parlando di Giancarlo Giannini e anche di una accoppiata tra un attore e una grande regista, l'accoppiata Giannini-Vermüller. Infinita carrellata di personaggi diversi tra loro, ai quali lui dà vita anche grazie alla sua profonda conoscenza dei dialetti italiani. E siamo arrivati al 1976, un altro anno importante per entrambi, perché dalla loro collaborazione nasce un bellissimo film, Pasqualino Sette Bellezze, varca i confini nazionali, riceve 4 nomination all'Oscar, miglior regia, miglior film straniero, migliore sceneggiatura originale e ovviamente migliore attore protagonista. Non vince l'Oscar, anche se però la Vermüller ha il primato di essere la prima regista donna a ottenere una candidatura. Tra l'altro in questo film c'è una meravigliosa colonna sonora di Iannacci. È un grande segno di apprezzamento anche dall'estero nei confronti di una pellicola che ha una storia tipicamente italiana. Giannini recita in dialetto napoletano e fa il guappo. Politico, squartatore, Pasquale Frafuso, il mostro di Napoli, totale infermità di mente, 12 anni. Beato lei, io invece 28 anni e 4 mesi. 28, hai capito combinato? Ho pensato, questo paese qua è il delitto peggiore che possa commettere un cittadino. Siete antifascista. Socialista. Io la verità e politica non mi occupo, io ho altri interessi. Però i veis una certa simpatia teng. Dici una verità, chi l'ha fatta le strade, le bonifiche, ci ha dato un impero. E anche agli occhi degli stranieri, chi ce lo invidiano tutto quanto. Quando esce in coppa chi lo balcone, con che la voce, chi lo occhio. Poi prima noi italiani ci sputavano in faccia tutto quanto, vi siete scordati. E issa ha messo a posto tutto cosa. Oh, che bravo, ecco fatto. Ha ripulito gli angolini. Ma nel corso della sua carriera Giannini ha lavorato con tutti i più grandi registi. C'è un film terribile ma bellissimo che è L'Innocente di Luchino Visconti, e poi c'è Monicelli, Dino Risi, L'Attuada, Nanni Loi, Lizzani, La Comencini, Pupi Avati, e poi ha vestito i panni di Paolo Borsellino, del generale della Chiesa, e poi ha preso parte a grandi produzioni internazionali. Ha recitato in inglese ovviamente, come in Hannibal di Ridley Scott, due film della saga di James Bond con Daniel Craig, Quantum of Solace e soprattutto Casino Royale. Quest'uomo mi ha fatto imprigionare e poi mi ha fatto anche torturare. E tu adesso che fai? Gli servi del vino? È un vino qualsiasi. I need a passport and matching credit card. An MI6 run out of plastic. My lordly, right now you're the only person I think I can trust. That is odd. But I guess when one's young, it seems very easy to distinguish between right and wrong. But as one gets older, it becomes more difficult. The villains and the heroes get all mixed up. Ma Giannini non può accontentarsi, così esordisce anche nella regia. 1987, Terno Seco, 2013 ha prodotto, girato e interpretato Ti ho cercata in tutti i necrologi, un noir sul tema della caccia all'uomo. Ma oltre a essere un grandissimo attore, Giannini è uno dei più bravi doppiatori del mondo, possiamo dirlo senza paura di essere smentiti. E ascoltate cosa dice lui sul doppiaggio. Doppiaggio io lo definisco qualcosa di mostruoso proprio. È come lavorare con Frankenstein. Togli la testa, metti la cosa, cambi la voce a uno, lo fai diventare da americano, italiano, da cinese. È una mostruosità. Però noi italiani siamo bravissimi, siamo sempre stati molto bravi in questo mestiere. E il doppiaggio è qualcosa che anche un grande attore può non saper fare. È un dono, è come quello che ha intonato e l'altro no. A me riesce facile, insomma, e mi piace anche farlo. Questo traspare perché i doppiaggi di Giancarlo Giannini sono leggendari. Per esempio lui è da anni la voce ufficiale di Al Pacino, che in più occasioni l'ha ringraziato pubblicamente. Questo per esempio è il famosissimo monologo di Ogni maledetta domenica. In questa squadra si combatte per un centimetro. È vero, sì, la guerra. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro, perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa: in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. Allora vai, coach. Che cosa volete fare? Vogliamo... E poi Giannini è anche doppiatore di Jack Nicholson, l'ha doppiato tra l'altro in Shining, e Stanley Kubrick si complimentò personalmente con lui per la sua grandissima interpretazione. Ma tu ci hai mai pensato alle mie responsabilità? Io non so di che parli. Hai mai pensato solo un secondo, un momento, a quante fottute responsabilità ho sulle mie spalle? Hai mai pensato solo per un secondo, da quando siamo qui, alle mie responsabilità verso la direzione? Non ti sei ancora resa conto che io ho accettato di occuparmi dell'Overlook Hotel fino al 1° maggio? Non te ne sbatte niente, te, è vero? Che i proprietari mi hanno messo in mano l'albergo e che hanno fiducia in me e che io ho sottoscritto una lettera, un impegno o un contratto col quale ho accettato di prendermi questa responsabilità. Ma tu ce l'hai una vaga idea di che cos'è un principio etico e morale? Ce l'hai? E tu ce l'hai solo una vaga idea di che cosa sarebbe il mio futuro se non ce la faccio a mantenere gli impegni che ho preso? Ci hai mai pensato tu? Rispondi! E questa è la scena che è stata considerata il miglior doppiaggio nella storia del cinema. Beh, adesso c'è una sorpresa, perché all'inizio del nostro racconto io vi ho detto che Giannini ha sempre qualcosa di inedito, di sorprendente. Ascoltate questa. Nel frattempo io non ho lasciato perdere l'elettronica e ho cominciato a curiosare nei tempi di solitudine bellissimi, ho dei laboratori in campagna bellissimi, e a inventare delle cose. Mi piace pensare a quello che non c'è. Allora ho fatto questa famosa giacca di Robin Williams, delle cose che nasce in un modo molto semplice, vedendo i miei figli che all'età di 4, 5, 6 anni lavoravano, stavano lì davanti a questo primo computer che si chiamava il Commodore, che passivi, schiacciando dei tasti di fronte a questo schermo. Dico, accidenti, ma l'elettronica può essere qualcosa di molto più divertente. Più... Allora costruì per loro dei giubbotti, qui non si vedeva nulla, ma erano due drum, due batterie, cioè tu ti muovevi e nasceva il tamburo, il tamburello, la cosa. E per farli giocare, cioè unire il senso così della tecnologia a qualcosa di più fantasioso. E da lì nacque l'idea di costruire poi la giacca con i vari ritmi, quella che feci per Robin Williams nel film Toys. Accomodati, Leslie. Scusi il ritardo, ho avuto un problema con il tesserino di riconoscimento. Forse i rifiuti tossici hanno frenato la mia crescita. Oh, questo è il nostro nuovo cappotto sono incorporato. Funziona con movimenti e sbalzi di mercurio. Oh, aspetti un momento. Accidenti. Siediti, Leslie. Siediti, Leslie. Certo. Scusi. Sì, è sorprendente questo. La giacca di Robin Williams, quella che lui indossa nel film Toys, è stata creata, ideata, costruita da Giancarlo Giannini. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala e ci sono storie di persone che hanno volato per tutta la loro vita, addirittura partendo da perito elettrotecnico e diventando la storia del cinema italiano con versatilità, poesia, ironia, incisività. È la storia di un uomo come Giancarlo Giannini. Ognuno di noi può volare in alto e può dare dei colpi d'ala che spesso sono frutto di studio ma anche di improvvisazione. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il nostro microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24 oppure sul nostro sito www.radio24.it, oppure venite a cercarmi nei miei social, nei nostri social, Facebook, Twitter, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.